All'House of Bach si tiene una cena molto speciale, dove si discute delle prossime iniziative e si parla con i nuovi amici che ci vengono a trovare. Da questa tavola passa tutta la buona energia della città. Benvenuti anche a voi alla cena del regino. E ragazzi, bentornati alla cena dei regini. Applausi! Cosa non è successo questa settimana? Veramente di tutto, ma in particolare sono iniziati i lavori all'House con tanto di demolizioni che andranno adesso a completarsi. Potete seguire il tutto su www.bach.it, cliccare la cena dei regini per contattarci e commentare anche questa puntata. E in più adesso, grande novità, siamo anche su YouTube, dove la gente può guardare i nostri video. Abbiamo tentato di mettere qualcosa già precedentemente con scarsi risultati, a parte un video spettacolare dell'uomo della strada che non spegne il cellulare. Andando avanti adesso... Un applauso! cliccatissimo! Adesso passiamo a un angolo musicale, la Tasha D, Lee con Getaway. Ragazzi, bentornati alla cena dei regini. Adesso l'angolo della musica con un ospite musicale, un prodotto di musica in stile moderno con tendenze electro ambient, quindi particolare, nato da idee di un ragazzo regino, Davide Moraffi, in arte Dorian Muniz, e Yamud Project, che ce ne parlerà adesso. Ragazzi, un applausino. Ciao Davide, benvenuto alla cena. Ciao a tutti. Senti, iniziamo dalla domanda più classica, introduttiva. Chi c'è dietro a Mood Project e che definizione daresti al tuo progetto musicale? Allora, dietro ai Mood Project ci sono io, quindi Davide Modatti, il fondatore del progetto nel lontano 2011. Come progetto lo definirei un progetto elettroambient dallo stile eclettico, in cui si fondono varie sfaccettature e vari generi musicali provenienti da tutta, diciamo, tutto il bagaglio culturale musicale che ho acquisito nel corso del tempo. Degli anni, certo. Per iniziare, un riferimento internet a chi sta seguendo e vuole magari intanto spulciare qualcosa di quello della tua musica e di quello che fate con Mood Project? C'abbiamo un sito internet da consigliare? Qualcosa da cercare? Allora, tutti i riferimenti internet li potete trovare sia sulla pagina Facebook di Mood Project, quindi Mood Project proprio come scritto, su Facebook, oppure su SoundCloud, dove ci sono proprio tutti i pezzi che pubblico non appena, diciamo, vengono terminati. Adesso ne dovrò mettere altri due, che sono praticamente due pezzi che ancora non ho mai pubblicato, uh-huh. E che sono praticamente gli ultimi due pezzi dell'album, cioè ne parleremo tra poco. Ma da quale necessità nasce innanzitutto il progetto, cioè la spinta che ti ha fatto iniziare questo percorso musicale? Progetto è nato dall'esigenza di fondere lo stile acustico e quello elettronico. Okay. Inizialmente ci chiamavamo Mood Project ed eravamo un progetto tendenzialmente acustico, in cui suonavamo con batteria acustica, due chitarre e un basso, con musica per lo più strumentale e poche voci. Uh-huh. E lì il tocco elettronico era dato da una batteria elettronica, e infatti eravamo in cinque, suonavamo con due batterie, un'acustica e un'elettronica sovrapposte, e veniva una roba abbastanza, diciamo, particolare. Chi volesse potrebbe ancora trovare qualcosa di questo progetto su YouTube, come Mood Project Trip Hop. Uh-huh. Poi, attraverso varie vicissitudini, il progetto si è smembrato, uh-huh. Però, diciamo, ho voluto mantenere un po' quel sound, e quindi, essendo stato il fondatore, l'ideatore di questo gruppo, ho continuato da solo, diciamo, ho riunito quelle che sono le mie passioni, in quanto sono sia la batteria acustica, che le percussioni, che la chitarra, uh-huh. E poi il fatto che sono anche laureato in informatica e quindi conosco abbastanza bene il computer, per cui ho applicato, diciamo, la mia passione ai computer, certo. Per cui ho unito le due cose ed è nato Mood Project. Ma una curiosità personale, perché chi pensa alla musica elettronica pensa comunque a un computer che fa partire pezzi. C'è ancora la possibilità, lo spazio per delle esibizioni live di musica elettronica? Hai trovato questo riscontro presso strutture locali e via dicendo, oppure stai proponendo semplicemente la cosa via internet con un certo distanza? Allora, diciamo che questo aspetto va un po', diciamo, a interessare quello che è il panorama musicale reggino, essendo che Mood Project è nato nel territorio reggino, uh-huh. Comunque, diciamo, non c'è stato un grande spazio inizialmente per poter magari suonare dal vivo, però per quanto riguarda l'unione dell'elettronica con il live, la risposta è assolutamente sì, cioè il live può essere composto assolutamente da strumenti elettronici suonati live sul momento, per ovviamente una performance un po' diversa dalle altre, che va un po', diciamo, a magari anche esulare da quella che è la normale esibizione di un artista, di un musicista, che prevede, che ne so, l'esecuzione di un brano alla chitarra oppure alla batteria oppure un brano audio con strumenti tipo il monome, che sono praticamente dei launchpad con i quali si possono mandare le clip, okay. Live, sostanzialmente si può suonare live e poi unendo altri strumenti come le tastiere e qualsiasi altro, diciamo, strumento che può essere diciamo utilizzato con un computer, con un Mac, mm-hmm. o con un software musicale come Reason, Ableton o non so, qualsiasi software delle, i software della Korg, like Oscillator, no? Si può assolutamente quindi ottenere, diciamo, un risultato molto buono, una performance ottimale. L'ultimo in ordine ovviamente di tempo, passo della tua esperienza è FluRef, questo album che tu hai reso disponibile sul web. Come racconteresti queste tracce a chi le va a ascoltare? Come le introdurresti? Come le racconteresti? Allora, FluRef è un album che nasce dall'esigenza di unire tanti stili, molti, diciamo, molte influenze, ci sono molte influenze, e quindi, diciamo, all'interno dell'album non riusciamo a trovare una serie di generi. Allora, potrei raccontare tutti i pezzi che sono all'interno di FluRef, però diciamo che principalmente il significato ogni pezzo, diciamo, si lo possiamo descrivere con il titolo. Infatti, non so, ad esempio, se prendiamo Full Moon, ad esempio, può essere banale, però mm-hmm. ovviamente è stato ispirato da una notte di luna piena, tanto per dire. Okay. Oppure, ad esempio, Peace è un pezzo che è stato fatto in un'occasione particolare della mia vita, in cui è successo un determinato episodio che mi ha ispirato, appunto, diciamo, una serie di sensazioni che hanno generato poi quel pezzo. Poi ovviamente tutti i pezzi dell'album danno un certo mood, e quindi l'intenzione è quella di ispirare chi ascolta con un mood diverso, e poi ovviamente ad ogni momento è chi ascolta che va ad associare il pezzo a seconda del mood, appunto, di quell'attimo. Chiaro. Parlando un attimo di te, della tua storia, tu sei Regina assolutamente di origine, però stai adesso al nord, comunque hai fatto questa esperienza anche di, diciamo, emigrazione. Cosa rimpiangi e cosa non rimpiangi di questa scelta? E tu, da persona che comunque ha dovuto fare questa decisione, cosa consiglieresti, visto che qua abbiamo avuto anche persone che hanno parlato di da questo punto di vista? Cosa consiglieresti a chi prenderà le redini della città? Allora, io faccio parte di quella categoria di persone che sono dovute emigrare dal sud per ovvi motivi. Ovviamente sono i motivi che conducono tutti qui nelle terre fredde del nord. Chiaro. E quindi per lavorare. Rimpiango tutto quello che rimpiangono le persone che sono emigrate al nord, ad esempio il clima, diciamo, prima dall'aria, dalle cose più scontate, ovviamente il mare, le cose da mangiare, i dolci, gli amici, la famiglia. Non rimpiango ovviamente la stasi nella quale mi trovavo, e si trova, penso, tuttora tutta una gran fascia di persone. Sono tutte le persone che sono rimaste a Reggio e che attualmente non lavorano. Ecco. Quindi non rimpiango assolutamente quello stato di stallo, sia mentale che lavorativo, economico, sociale, che generava e genera, penso, tuttora quella città, perché non credo che le cose, da quando sono andato via io, siano cambiate. Ci stiamo lavorando, dai. nel nostro piccolo ci stiamo lavorando. Stiamo lavorando, lo so, però consiglio a chi prende le redini della città, il consiglio da dare sicuramente è quello di curare gli aspetti più scontati che non vanno bene a Reggio Calabria, che sono ovviamente l'acqua, il mare sporco o cose del genere, no? Uh-huh. E poi vabbè, ovviamente altre realtà tipo il pizzo e altre cose del genere, che comunque sì. Ovviamente non so se i nostri guai, insomma, storici avete visto, vanno, cioè praticamente stanno una situazione che sta andando a migliorare, però ovviamente ancora la strada da fare è molto lunga. Combattiamo, dai. Ragazzi, lasciamo libero Davide, due radori e Muniz, che ci ha presentato a Mood Project. Lo ringraziamo per essere stato con noi, grazie Davide. Grazie. Ciao, grazie a voi. Adesso, voi che siete all'ascolto, abbassate le luci, alzate il volume e ci ascoltiamo su Ref, il brano che dà il nome all'album, a Mood Project. Ragazzi, bentornati alla cena dei regini. Passiamo all'angolo delle notizie di Reggio e dintorni, come se fosse naturale. Ma prima vi ricordo www.back.it, cliccate la cena dei regini per comunicare con noi, riascoltare le puntate precedenti che adesso trovate anche su YouTube con questi video. E continuiamo col dare il benvenuto a 8.500 turisti in Calabria che stanno venendo dalla Germania a passare le vacanze qui. Dalla Germania ragazzi, sapete che fa parecchio freddo. Hanno inaugurato questa linea di aerei che dalla Germania porterà 8.500 turisti qui con una permanenza di circa una settimana, quindi comunque si godranno ben bene la... Speriamo che fanno pagare poco la casa. Quindi calze standard da tutte le parti. Quindi si portano l'Oktoberfest. L'Oktoberfest? Ma quello indietro, quello sì, certo. Sì, poi noi cerchiamo i tre treni più possibili, poi li restituiamo, noi cerchiamo la birra, cerchiamo Andrea, dobbiamo trovare uno e farci la birra, cerchiamo di farci portare la birra felice. Ah, poi io ci trovo una fidanzata, Andrea, io aggancio. Però ragazzi, quando si parla di Reggio, una cosa meravigliosa da andare a visitare è questo tratto di via Giuseppe Mazzini, che è stato asfaltato in una maniera molto particolare, perché c'erano queste auto in sosta vietata, dovevano asfaltare la strada, allora che hanno fatto? Hanno asfaltato tutto intorno all'auto, lasciando l'auto là. No! Cioè, le macchine le fatto vietata! Perché? Impossibile, cioè quando si spostano le macchine rimane il buco? No, è rimasto. È rimasto il buco dove c'erano le macchine parcheggiate. Cioè, tutta strada nera, tranne questo piccolo spazio di una macchina. Ma questo perché, ragazzi, non avete capito, la promozione turistica di Reggio passa anche attraverso questo meme che diventerà su internet. Il tormentone dell'inverno, sicuramente. Della strada asfaltata intorno all'auto. Che anche se, perdonatemi, mi è capitato di avere sotto mano una fotografia in Giappone di una macchina parcheggiata in divieto di sosta che non poteva essere mossa senza autorizzazione, e hanno distrutto tutta la piazza intorno, proprio distrutta, rotta con, e l'unico pezzo salvato è la macchina. Ora mi domando, prima che rimuovono tutte le macerie, quello come la fa a spostare la macchina quando torna? E chi fa la multa gli viene dopo. Ma tu non hai capito il discorso grande, loro volevano iniziare a fare un percorso a cacchiera, cioè ci hanno ripensato e hanno detto no, vabbè, il lavoro è troppo, evitiamo. E poi ho detto, caspita, la macchina ci stava giusta dove andare il bianco. O anche hanno finito l'asfalto, e per non dire che avevano finito l'asfalto, ci hanno parcheggiato le macchine. Le macchine per il volume di asfalto mancante. Vedete, perché mancano magari le risoluzioni, ma come scuse noi siamo disposti a fare qualsiasi cosa. È giusto che sia così. Andiamo avanti rispetto alla notizia di Striscia che ha smascherato questi tassisti che facevano pagare cifre esorbitanti ai clienti. Che... Sempre a Reggio? A Reggio, ovviamente. Non si può dire la ditta che lo faceva? No, hanno fatto diversi rilievi su diversi tassisti e tutti erano fuori regola e comunque tutti erano... Posso permettermi di fare un appuntino? Arangea, Modena, 20 euro. Perfetto, quindi anche tu sei stato frodato. Esatto. Invece con un'altra compagnia ho fatto Arangea, architettura, zona d'architettura, 10 euro. Mm-hmm. E mi hanno pure aspettato perché prendevo una cosa fuori, quindi... Per dire che fantastico, perché hanno messo uno dei loro tizi su questi taxi, hanno fatto queste corse e tutti erano comunque fuori regola con conteggio e via. Ma è la seconda volta che Triscia viene qua nella zona di Regina. Ormai innumerevoli. Perché l'altra volta mi dovevi chiamare Capitan Ventosa per parlare appunto delle nostre buche. No, delle nostre buche. No. Rifiuti, no. Permesso. Sì, noi non abbiamo le buche sulla strada, abbiamo ogni tanto un pezzo di strada buono. Ecco. Premettiamo, abbiamo ogni tanto un pezzo di strada buono. Invitatemi a gincare per trovare la strada perfetta. Invitatemi cercando di emulare la luna. Presto potremmo dire che mettiamo la bandiera e vediamo. Questo è un piccolo passo per i reggini. Non possiamo arrivare. Non avete niente, tutta colpa della Sicilia. Oh, perché? Perché? Perché quando date una rutna cadono i detriti sull'asfalto e quindi si rompe. Lettere sulle paure. Comunque l'idea dell'asfalto è fantastica. Me la devo cellulare, me la devo mettere sulla mia pagina. E poi Andrea che ti faccia nemici, tutti i siciliani. Ai siciliani piace questo elemento. Ma ragazzi. Dove prendere in giro questa cosa delle buche, tipo una ragazza che la vuole cane dentro la buca. Bellissimo. E tu presto come i tedeschi si fanno le foto insieme alle buche pensando che siano proprio elemento scenico di Reggio. Esatto. Spacciamola per una cosa. L'antico termine romano, no? Noi mettiamo direttamente le antenne vicino al buco. Non mi ricordo qual è la strada peggiore che abbiamo. Comunque, veramente. Davvero, non c'è un pezzo di strada dritto. Tutto spaccato. Se qualcuno mi ascolta, l'idea è mia. Ma se sono sempre fatte. L'assessorato al turismo ti ringrazierà per questa cosa. No, la strada peggiore fino a qualche tempo fa è Viale Europa, era messo molto. No, ora sta bene Viale Europa. No, ce n'è un'altra proprio, un piccolo pezzo, saranno 50 metri, mm-hmm. dove non c'è un pezzo intero, l'ho passato io con la macchina, è impossibile non prendere una fossa. Cioè proprio, neanche con una ruota dicessi, niente, non c'è proprio un pezzo. La macchina ti sa, gli ammortizzatori se ne vanno tutti, spacco lampadine, spacco ammortizzatori, c'è di tutto. No, ma il peggio è il viale che gli do per i dai. Non me la ricordo, c'è un pezzettino, sono 20-30 metri al massimo. L'altra sera eravamo sul viale in macchina, quando c'è tutto l'ho presa proprio oggi. L'ho presa proprio oggi. Ma c'è una buca estremamente assurda, anzi al viale. Non sono buche, sono percorsi alternativi. Questo non è che Reggio Calabria percorsi alternativi per il meccanico, per il gommista. Reggio Calabria era conosciuta come il Gran Canyon. Non ti dico la convergenza, ma l'equilibratura mi dura normalmente 3 ore. Non sei giocata. Vabbè, ragazzi, basta con queste notizie brutte. Dedichiamoci un po' alle notizie felici. Quanto spendereste per avere un fucile d'assalto a casa? C'è gente che solo fa soft air un 200-300 euro. Un fucile d'assalto funzionante a casa, funzionante. Guarda, visto che io sono pronto per la io sono sicuro che ci dà l'apocalisse zombie. Quasi quasi ci faccio un pensierino. Quanto potrebbe costare? $245, dollari, ovvero circa 180 euro, ci si può portare a casa questo bellissimo fucile d'assalto da collegare al PC della PlayStation per giocare con videogiochi che richiedono un fucile d'assalto. Finto! Sarebbe una bella idea. Ma non ha senso, funzionale. Perché tipo Call of Duty c'è il pugnalino con fucile d'assalto. Ma i fanatici è tifo! Ma Call of Duty fa più stage col pugnalino che col fucile. Allora, ragazzi, tu c'è fucile d'assalto in mano e sinceramente... No, innanzitutto è una figata il fucile. Cioè sì, questo è bello. Secondo, è fantastico pagare altri 68 euro per avere questa scatolina di metallo che protegge il fucile e quindi andare a fare la figata con tanto di chiavi per chiuderlo, perché è importante. Però troverebbero a rubare in casa poi, perché non è che lo usi chissà dove. E poi c'è un video dimostrativo di questa cosa che fa vedere questo ragazzo alquanto psicopatico che fa quelle faccette che un po' tutti facciamo giocando a questo tipo di giochi. C'era nel esatto. Ed è bello che durante questo video alla fine si sporca anche la faccia per aumentare il realismo. Il realismo. Oh, okay. Ma io immagino già negli aeroporti uno se va a portare tipo, oh, vado dal mio amico qua. Posso premettere una piccola... Vado a un Lamparty con questo... questa roba e ti prendono per terrorista. Vi premetto, allora, se non ricordo male, ho un gioco o una scheda video che vendevano nel negozio di computer che ti davano in automatico per casco il visore notturno. Che figata! Cioè ti mettevi il visore notturno, tu lo accendevi, questo con la cosa, tipo, sai, quel bocchetto... 360 euro, una cosa del genere, con tutto il gioco, e ti mettavano sto cosino qua. Ma funzionava almeno. Certo. Che figata! Però non mi ricordo qual era il gioco, lo vendevano in negozio. Tutto sto cannocchialone enorme. Ma mi sembra che c'era un gioco... Per il soft air, ma è una figata spettacolare. Che riguardava proprio questo, però non mi ricordo come si chiamava. Che poi alla fine smettevi di giocare al computer e giocavi con questo. Esatto, no, stavi più col tempo. Questo... Che poi non si collegava al PC, era per il software, quindi era pure originale. Proprio per... Ma ragazzi, c'è un problema riguardo questi giochi. Un problema riguardo questi giochi che è la lentezza dei computer. Quante ore perdiamo in 12 mesi perché il computer è troppo lento? 164. 164 giorni in ore, in 12 mesi, perché ad aspettare che il download finisca, il caricamento si completi. Non è che ora voglio farmi pubblicità, ma se vi va lento il PC in questa maniera, venite da me che ve lo sistemo io. Detto questo... Però con i laboratori, cioè dovrebbe essere un laboratorio linguistico, informatico qua. E invece c'è ancora cioè, mi è arrivato un dottore, anzi una dottoressa con un netpad e mi fa scusa, ho il PC lento, me lo puoi velocizzare? Vabbè, quanto te lo posso far andare più veloce? Dico, di solito una percentuale del 30-40% in più. Ah vabbè, già sarebbe meglio, mi si accende in mezz'ora. Come, scusa? In mezz'ora, cioè lo accendeva mezz'ora per avviarsi Windows. Ma infatti, che cavolo, sai cosa ci ho trovato? 2500 virus. Ah, però. Ah. In più c'era Windows, quindi. Già Windows di per sé. E quindi per la precisione, più o meno in media appunto, sono 13 minuti per aspettare l'avvio del PC. 13 minuti? In media, sempre nei 12 mesi. Ah, ecco, nei 12 mesi. Minuti. Per soli 2 giorni calcolati sempre alla media di 26 minuti per aspettare il completamento del download, quindi aspettare che si carica, si scarichi il film o la musica. Vabbè, dipende che linea avete, mettiamola tra virgolette, perché c'era un mio amico senza fare nomi, che aveva una dorsale sotto da 64 megabit, vabbè, con cui naturalmente dovevano lavorare, facciamo nomi, e niente, ci giocava a fare gli aerei, sai, no? Gli aerei a reazione, con le cloche, con le cose, e si divertivano con gli altri colleghi, sempre delle altre stazioni, ops, non si può dire, e quindi la parola stazioni già idea, e quindi zanzam giocavano con gli aerei, premesso, durante, ragazzi, naturalmente non le ore di servizio, ragazzi, questa è una cosa particolare. Passiamo alla prossima notizia, che è questo è un po' troppo, passiamo all'angolo, l'angolo hard rosa, non è rosa e neanche rosso, rossiccio. Perché è stata trovata una scena di sesso all'interno di FIFA 14. Non mi dire. Una cosa molto particolare, cioè un video abbastanza esplicativo. Non è, cioè, domanda, ma è stato trovato o fa parte del gioco? Esatto, è stato segnalato alla ditta. Quindi un ex. Che, ma come si chiama? No, FIFA 14. FIFA 14. Stai già prendendo. Sì, ma è stato giocatore. Sta prendendo già il sociale. Dai, non so se... È una scena di mimata di sesso tra due giocatori, in particolare mi sembra che si tratti di un portiere e di un attaccante, ed è stata segnalata alla ditta che produce il gioco, e la ditta ha detto che non è una cosa, cioè una cosa voluta. Come voluta? Perché deve simulare il contatto fisico tra i giocatori, e di cui mi sono spiegato il perché non vado mai a giocare a calcetto. Come si è voluto il calcio? È un po' eccessiva. Quindi non è un ex. Okay. Assolutamente no, è voluta, perché deve simulare quello che succede in campo, ragazzi. E quando, quindi? Tutti a dove chi è arrivata la simulazione? O chi va a giocare a calcetto? Mutande di ferro! Non giocate a calcetto con i programmatori della EA Sports, diciamo. Poi tra virgolette sono beta tester della EA. Sì, perché fanno parte di una divisione della EA. Comunque, ragazzi, adesso una breve pausa musicale. Michael McCurn, nomi sempre più semplici, Easier As Us. Get my mind away from the thoughts of you. 2 weeks ago today, you were just the girl I drew. And now I think it's time that we decide love is our friends, and we would be fools not to follow what our hearts suggest. So think it over and let me know, girl, 'cause you and I would be easier as us. Don't need 3 words, one could sum us up. We're a couple of pins, apparent when we touch. Oh, you and I will be easier as us. Oh, easier as us. Can't keep my hands away from holding yours. Your eyes like gravity keep pulling me close inside of your world. I think it's time together we find a life of our own. Together is hard when it's tight. Oh, the gates were long, so think it over. Let me know, girl, 'cause you and I be easier as us. Don't need 3 words, just one could sum us up. We're a couple of fits, apparent when we touch. Oh, the heart, I knew you were right from the start. You and I would be easier as us. We don't need 3 words, we just one. Walk it so much. You and I would be easier as us. Don't need 3 words, we just one. Could sum us up. We're a couple of pins, it's apparent when we Ragazzi, bentornati alla cena dei regini. Concludiamo questa settimana la classifica delle 50 cose da sapere assolutamente. 50. Ma la settimana scorsa avevamo fatto le prime 25. Ci mancano le altre 25. Visto che sono cose assolutamente da sapere, non possiamo privarci. Chi le vuole? Chi vuole sapere le prime 25 può scaricare il podcast o scaricare il podcast, perché non c'è il video di quella parte. Quindi mi dispiace. Da www.ibac.it e cliccare la cena dei regini, dove trova il podcast e si può scaricare. Quindi ragazzi, attenzione, mi raccomando, condividiamo questo momento di assoluta conoscenza con gli amici che sono a casa. Numero 26, se volete distruggere Google, cercate Zergrush su Google. L'ho provato, effettivamente. L'hai provato anche tu? Sì, è divertentissimo. Perché ti cominciano a apparire delle O che vogliono distruggere le cose che hai cercato. Bellissimo. E tu devi fare queste O. Tutti quanti hanno una barra vita. E perdi, te fai distruggere la barra vita di tutti i link che hai cercato, tutte le pagine che hai cercato. Fantastico, fantastico. E per quindi... questo consigliamo di mettere, quando fate nella ricerca, invece solo i primi 10, almeno 200, così certo, hai la possibilità. Non è così facile, perché se tu metti i primi 200, devi scorrere tutta la lista per trovare i dove ti attaccano. Guarda come sei impegnato. Lo sa, è impegnato. Ci ha passato delle giornate. Ecco, appunto, quindi non fatelo se dovete lavorare, perché verrete licenziati. Detto questo, numero 27, le formiche non dormono. Le formiche non dormono, ragazzi. Lo ti cercano. Lo dico, come non dormono? Secondo me con queste erano il modo. Scusa un attimo, non dormono. Le formiche non dormono. Non dormono. Dormiranno all'inverno. Non si fermano un attimo, vanno in stasi, si fermano. Come puoi dire questo? Un momento di pausa, un caffettino se lo faranno. Però non dormono. Cioè, l'importante è. Immagino già le formiche al bar. Dobbiamo imparare come fanno le formiche. Ne prendiamo due noi e controlliamo. Sì. E le guardi, cerchi di fare dormi. No, le devi controllare. Le devo controllare. Cioè, non devi dormire. Tu a proposito delle formiche, fermati un attimo, che aggiungo una piccola cosa che è divertente. Mi permetto. Dunque, vendono in America, avevano fatto degli esperimenti per mandare sulla Luna delle formiche e vedere il comportamento delle formiche sulla Luna in assenza di gravità o con gravità bassa, oppure nello spazio con bassa gravità. E avevano fatto una specie di agar, zuccherino, dove mettere queste formiche per farle mangiare e vivere felicemente dentro questo agar, e vedere come scavavano dentro l'agar le gallerie a gravità bassa oppure in assenza di gravità. Siccome è andata male questo tipo di ricerca, non gliene è fregato niente a nessuno, quindi l'hanno sospesa, mi sono avanzati questo progetto, questo brevetto, che non serviva a niente. Geniale, qualcuno l'ha ripreso, l'ha messo in vendita e vendono delle scatolette piccoline di agar, zuccherino, dove ti regalano questo substrato azzurro, giallo, verde, quello che sia, e tu devi prendere delle formichine qualsiasi, di qualsiasi genere, ce le metti dentro, chiudi, e queste qua vivono dentro questo agar scavando e tu, riprendendo le trovi su YouTube ad alta velocità, vedi come scavano queste gallerie, gironzolano per questo agar facendo tutte queste gallerie. L'agar stesso gli dà il cibo là. E non hanno bisogno di altro, vivono per tutta la vita mangiando quest'agar, facendo tutte queste cose, una cosa. Ma cioè, quindi quel discorso che dice lei si può fare, ne compri due, le metti là, le compro, le trovo, ne abbiamo così tante in vedi casa. Come possono vivere, non so, le lasci nell'agar e se ne zompettano. In teoria si potrebbe vedere se si fermano. Dove abbiamo adesso tutto quel coso lì di in teoria tutto pieno zeppo. Quindi in teoria si può prendere questo agar o crearne uno tipo un brodino primordiale, mettercelo dentro e farci vedere se si fermano. Le persone stanno a guardare le formiche che scavano i tunnel. No, metti una telecamera. Non deve di Windows, scusa, prendo o un cellulare o una telecamera qualsiasi, gliela punti sopra ogni 10 secondi un fotogramma, si può fare benissimo, ogni 10 secondi circa, e vedere se queste formiche realmente si fermano. Se tu lo vedi camminare, correndo, gironzolare per tutto lo senza mai fermarsi, vuol dire che non dorme. A me quando hai raccontato quella cosa... Non da mangiare, non è maltrattamento. Vivrei per altre cose, però... Cioè, quando hai raccontato quella cosa dello spazio, di questo problema, però di mente i Simpson. Poi voglio mangiare l'aria. Perché c'è una visione di Simpson. Ragazzi. c'è un suo episodio di Simpson dove c'erano appunto questi le formiche nello spazio portate da Homer. Sì, con le vode. E a un certo punto c'è questa scena di Homer che sta per investire il formicaio. E c'è, stavo della regina, chi è la regina? Sono io la regina, sei no, non sono io, non sei tu la regina. E poi scompare, e poi esplode. Va bene, grazie. Di Simpson. Dunque, andiamo avanti, numero 28, il grafico che disegnò il logo della Nike, quindi sì, multinazionale, grandi profitti, eccetera, fu pagato $35. Porca miseria, un affarone, è diventato famosissimo. È anche troppo, ha fatto un visto praticamente. Ha fatto un Mac Nike. L'avrebbe fatto mio cugino di 3 anni, forse l'avrebbe fatto meglio. Come chiunque va a vedere il logo della Nike? Fatto. Come chiunque va a vedere il museo di Reggio Calabria, cioè i bambini dicono posso disegnare meglio io e... Possiamo fare un concorso tra i bambini per chi riesce a disegnare meglio il simbolo della Nike. No, secondo me è andata così. Questo tizio era stato addestrato a soldato per fare questa cosa. In una settimana non è riuscito a fare niente. La notte prima della consegna dice: cosa faccio? Questo qua, ok, gliela porto. Bello, bello, €35. Mazza, per una notte di lavoro andava benissimo. Adesso si sta mangiando le mani. Secondo me era intento a disegnare qualcosa di serio col pennello. Gli entrano da dietro facendo: ti diamo €35. Questo spaventato e è venuto il corpo. Ed è morto. A parte a colpo epoplettico, però gli è venuto sto segno. E poi il colpo il logo è vincente perché è definito il baffetto. Ecco, vedi, il baffetto. Numero 29, bastano 4 secondi di silenzio per creare imbarazzo. Bene, andiamo avanti. Numero 30, cadendo da qualsiasi altezza, le formiche non possono morire. Cioè, queste qua non dormono, non muoiono. Sono indistruttibili, ma ve l'ho detto io, conquisteranno il mondo. Assolutamente. Sì, sì, assolutamente. Trattiamole bene, così si ricorderanno che non le abbiamo trattate bene. Io le tratto benissimo. A voi invece gli estingue vi frustreremo e vi saremo come schiavi. Siete contenti e belli. Sai quando vi ho detto che vi ci dirò per l'ultimo? Ho mentito. Secondo me stiamo esagerando un po' con queste formiche. Perché? Non dormono mai. Se cascano non si fanno male, riescono a portare 7 volte il proprio peso. Caspita, vorrei pure vedere, li stiamo mitizzando. Le stiamo mitizzando. Ma se finisse invece un po' come Guida Galattica per gli autostoppisti, dove le formiche ripartono per lo spazio con grande messaggio: grazie per tutto il DDT. Ecco. Che si sono portate? No, che hanno lasciato, perché era il nostro regalo. Okay. Numero 31, The Walking Dead è stato realizzato con un budget di $2.8 million per episodio. Ah, e cos'è? Walking Dead, una serie TV in cui ci sono degli zombie, degli sfigati che cercano. Parla con lui, che lui di zombie se ne intende. Sono quasi 30 episodi. Spettacolare, no, epica. 2 milioni per... Cioè epica. No, aspetta, è 2.8. Un po' di più dell'ora epica. Non puoi dire è epica. Bellissimo. La seconda stagione è più di... Lo devo vedere. A me gli zombie fanno impressione, lo devo vedere. È bello, è tratto da un fumetto che è tutt'altra cosa, cioè non c'entra praticamente nulla. Nulla, però hanno un po' modificato. Praticamente E il film è stato scritto dallo stesso autore dei fumetti, e quindi per non farlo precisamente uguale ha cambiato qualche cosa, però comunque è il suo mondo, capito? Hanno cambiato molto, ad esempio Andrea nel fumetto è una pirana, nel film è una testa di cazzo e prima o poi morirà. È morta. Cosa? Aspetta, spoiler! È morta. No, non è morta. È morta? Non è morta. Alla fine di questa stagione? No, non è morta. Alla fine di questa stagione? Andrea è morta. Non è morta. Non è morta. Vabbè, è morta. Ragazzi, basta. Non è morta. Scrivete a cenagocciolobacco.it: è morta Andrea? Farà questa. Fine. Okay. Numero 32. Panda. Usi tuo car. Ora che ora è l'unica frase palindromo in inglese. Però ripeti la frase perché... Vuoi ti da caro, ora cati hai soul. Ti sei impallato. Ah, sì, è in particolare. Cosa ripeti la frase. È un palindromo. Vuoi ti da caro, ora cati hai soul. Che lo leggi da sinistra a destra, da destra a sinistra, lo leggi alla stessa maniera. Sì, ma per essere un palindromo dovrebbe avere un senso. Esatto, è l'unica frase inglese che è un palindromo. Ma è una cosa dice. Was it a car or a cat is a soul? È una macchina o un gatto che io ho visto? O un gatto io ho visto? Ha un senso. Il vostro accento non si capisce niente. Vabbè, non sanno parlare bene l'inglese. Quello che cambia una macchina per un gatto. Guarda che se io vado lungo le rive del Mississippi, a me mi prendono, mi offrono le salsicce, perché comunque là ti vedono che sei proprio... Secondo me è che... Si prendono così tanto a cuore perché poveretto ti pensano che sei un importato. Nei Mississippi che ti danno le salsicce per questo. Andate al Mississippi e vediamo. Ti porti la parmigiana dietro. Fate scambio. Continuiamo con le ultime 25 cose da sapere nella vita, con un punto molto particolare. È veramente impressionante, perché devo dire, le patatine del McDonald's, le patatine fritte ovviamente, vengono insaporite con la carne. Oh! Beh, ma scusa, come fanno a insaporirle con la carne? Nell'impasto delle patatine ci mettono la carne? Ma sì, evidentemente l'olio che va. Ma tanto a McDonald's l'insalata sa di carne, le patatine sono di carne, la carne non sa di carne. Ma che vuol dire? Non sa di carne. Ascolta, perché ormai hanno estratto tutto il sapore della carne. Se vede le patate, prende il gusto. Dice Andrea, appunto, nelle pollerie mettono i polli in alto e le patatine di sotto, in modo che le patatine si seguiscono col pollo. Col pollo, sì, ma gli hamburger del McDonald's? No, sono hamburger. Ma perché tu, per il sapore della carne, non devi mangiare l'hamburger ma le patatine? Ovvio! C'è questo scambio di sapore. No, ma forse... Devi togliere la fettina dell'hamburger e mettere le patatine dentro la... Forse prendono l'hamburger e lo friggono dentro l'olio. Con l'olio ci friggono poi le patatine. A questo punto l'unica cosa... No, perché gli hamburger sono tutti alla pasta. Per il risparmio. Il famoso olio unte di succo. Mi sembra strano che abbia il sapore della prossimo carne. Questo traguardo, il frappè che fa di carne. Fanno senso. C'è il frappè da carne. E detto questo, continuiamo con un momento di silenzio per i 30 milioni di account Facebook che sono ancora intestati a persone morte. Ebbene sì, perché la gente non li deregistra, come si dice, non li cancella, non li fa, e quindi restano intestati a persone ormai scomparse. Mi ricordo una vecchia battuta che già Facebook una volta, cioè di persone che questo account diceva: il mio desiderio è dare la pasta ad un mio amico, morire, e poi questo amico si collega e scrive: oh, che figata, anche all'inferno c'è il wifi! Terribile, però. Io dico, contento lui, sì. C'è l'opzione di Facebook per far sapere a tutti che... per trasformare i propri Facebook in memoriali. Ma io penso che la gente non lo faccia per un fatto di come dire, darsi l'illusione che ci sia un contatto. Come fai a farlo? Sei morto. Ovviamente lo fanno gli amici di Facebook. Gli amici, Vabbè, ma gli anche perché... la password. Tu no, nel punto di morte, ragazzi, sto per morire, vi dico la password di Facebook. Ma infatti è così, ragazzi. È possibile. Tu vedi che il più messaggio qui sarà: sono gay. Ragazzi, ma secondo me è meglio così piuttosto che vedersi tipo... Avete presente quando ci sono quei messaggi automatici che ti arrivano dai profili ad altri profili, no? Tipo, Malgioglio ha risposto a queste domande. Immagina se capita di una persona morta. Tan, tan, tan. È molto inquietante. È uno zombie. Si parlava degli iscritti. Si parlava durante una cena quest'estate proprio di lasciare la password. Io te lo dico sempre, lasciare la password come ultimo segno di vita. Va bene, mettiamola nel testamento. Quando stai morendo. Nel testamento, apertura del testamento, dice: ora diciamo a tutti i congiunti che no, purtroppo no, perché così diventa in qualche modo pubblica, a partire dal notaio che la sa. Invece tu prima, quando stai proprio nella busta, nel momento del trapasso, quando guardi il tunnel. Ecco, non fai in tempo a farlo. Prima. No, la medaglietta al collo che oltre che dirti il gruppo di sangue che ti è, c'è pure la password di Facebook. Ah, aspetta, aspetta, oggi qua, oggi qua. Devi strappare perché altrimenti... Siete veramente... Si autodistrugge tra 20 secondi. Siete veramente perversi. Tra l'altro c'è l'account di una ragazza che è morta mesi fa e due giorni fa ha messo mi piace su una pagina. Oddio! Questa cosa mi ha mamma molto mia. Però... In verità l'invasione di Zeta comincia da Facebook. Oddio. No, l'invasione comincia da dei piccoli messaggi che arrivano tramite la pubblicità. Ad esempio al numero 35 scopriamo che Colgate ha avuto problemi in Spagna perché in gergo significa vai ad impiccarti. Vedi, tu la mattina ti svegli, la sera vai a dormire. Io mi lavo i denti con Colgate, cioè vai ad impiccarti. Mi raccomando, e grazie a lui mi sono... Colgate, sicuramente. Sì, mi raccomando, per dei denti puliti andate a impiccarvi! Andiamo avanti, in effetti, non scopriamoci di ridicolo. Ma immagina il cartellone con scritto vai avanti a casa, apri la finestra, bella, che bello sveglio la mattina, apri, voilà, vai a impiccarti. Vai a impiccarti. E io, che cavolo, appena iniziato bene, già mi iniziano a dire queste cose, mi passa la voglia. Il creatore della Puma, la numero 36. E il creatore dell'Adidas erano fratelli e nazisti. Sul nazista non lo posso dire perché non si sa, ma erano fratelli. Fratelli, strano. Si vede che avevano sto Adidas e Puma. Avranno avuto la stessa idea. Adidas e Puma. Puma faceva scarpe, se non ricordo male. Anche Adidas. E Adidas anche faceva scarpe. No, l'Adidas non faceva gli spray per... No, l'Adidas faceva principalmente articoli sportivi, scarpe. Adidas non fa gli spray per il corpo. Anche. Allora, si potevano mettere insieme. Uno faceva le scarpe, l'altro faceva i profumi per le scarpe che puzzavano. Mentre quello dell'Adidas gli ha fatto le scarpe a quello del Puma. Esatto. Basta così, ragazzi. Andiamo avanti che è meglio. Se vuoi guardare l'intera saga di Soul Enigmista, ti serviranno di? Se Soul Enigmista, dillo tu. Non lo so. Ti serviranno. Non riesco a utilizzare lo stesso. Non lo so. 666 minuti. Per fare cosa? Per guardare la saga di Soul Enigmista. 666 minuti? Sì, hanno lasciato questo. E secondo Adam Cadman c'è qualcosa dietro. Questo piccolo giochino di numeri di roba. Ecco perché non ho finito. Ecco perché non si è finito così velocemente. Ovvio, non voglio farlo. Aspetta, l'ultimo secondo, dobbiamo metterci qua. Io glielo toglierei un minuto. Numero 39, costruire il Titanic costò 7 milioni di dollari, ma girare il film costò 200 milioni di dollari. Quando... Vabbè, ma ai tempi 7 milioni di dollari chissà quant'erano. Vabbè, anche questo è vero. Se li mettevi in banca ce ne guadagnavi almeno da 30 volte di più ora, non volendo dire. Però è durato di più il film. Anche questo è simpatico. Numero 40. Se in tasca hai 10 euro e non hai debiti, sei più ricco del 25% degli americani. Aspetta un attimo, ripetimela perché io un po' con i calcoli sono questo, un po'... Questo è tipo quei problemini che si rallenta. Se in tasca hai 10 euro e non hai debiti, sei più ricco del 25% degli americani. Sono proprio messi male. Quindi manco 10 euro danno. Perché hanno i debiti. Hanno molti. Poveretti. Vedi. 41, dopo la parola ok, la parola Coca-Cola è la più conosciuta al mondo. Davvero? Esatto. Va bene. Numero 42, l'inventore di Emule è attualmente in galera per aver creato Emule. Alla faccia! Questa non la sapevo. Però è in galera? Cioè, di proprio così. galera. Mi stupisce questa cosa. A me non c'è. Ma il suo nickname era Mercur, non so. Grazie, Mercur. No, ci ha regalato tante cose. Io, sinceramente, lo bandirei totalmente dal mondo. C'è più autore. Perché garantisco che è una cosa terribile. Prendi virus da tutte le parti. Sentiamo. Dice. Sì, sì, vabbè, sì. Se fai, c'era l'anteprima, alla fine hanno trovato di no, essere... l'anteprima non la puoi fare. O quello, alla fine cambiamo i nomi dei film, no, no, per no, no, no, no, quelle torre. È bello! Sì, vabbè. Lo so. Ma perché non vi andate a comprare i film? Compratevi i film che è meglio. Che portare della Disney? Ma, ma qua nessuno scarica. Siamo aspettate tutti perché adesso le stiamo per dare una notizia che sicuramente non sapevi e ti resterai veramente male. Numero, peggio. Alla numero 43, il vero nome di Topolino è Mortimer. Come? Il vero nome di Topolino è Mortimer. Ma non era manco Mickey Mouse. No, quanto pare vabbè, quello originale era Mortimer. Come Mortimer? Mortimer. Ragazzi, non è che tutti i brand escono subito così direttamente. Non c'è ma tu immagini, c'è Mortimer. Mortimer. Mortimer. Mi hai rovinato. Oppure per sempre Topolino, cioè io sono nato con Topolino, sono cresciuto con Topolino. Topolino e avevo uno sotto il letto che si prendeva i dentini e se li portava a casa. Ma e mi dava le 5.000 lire mi dava a me. 5.000 lire? Allora no, è una bella quotazione. E metà? 5.000 lire me le dava. Tu leggevi le avventure di Mortimer. Cioè io ho Topolini del 1962. Cioè, e tu mi vieni a dire che si chiama Mortimer. Chi non leggerebbe un bambino Mortimer? Io canterei. Vabbè, abbiamo capito perché comunque... Hanno capito il nome. No. Poveri noi. Andiamo avanti al numero 44. Chi parla due lingue può essere dislessico solo in una. Io sono dislessica in tutte. Ci hai messo bene. Sei l'unico esempio. Aspetta un attimo. Quando uno è dislessico e parla due lingue... In una delle due, una sola delle due è dislessico? Sì. Sicuramente. Cioè, come dire, può essere dislessico. Cioè, io sono dislessico in italiano mentre parlo benissimo l'inglese? È il contrario. Ma non è che. Però dislessico in inglese. Ma non è che tu mica. Ma in inglese parli meglio, non è che non sai parlare bene. Sono meno e se sono dislessico su tutte e due? Sia in spagnolo che in italiano. Vedi, lei è dislessica su tutte e due, pure io lo sarei a questo punto. Perché preferire l'uno o l'altra? In realtà siamo fare... tutti dislessici. Qua ci stanno bene solo i 4 secondi di imbarazzo. Li lascio per voi due. Basta. Numero 45, questa è una cosa particolare che può aggradare molti. Il bacio alla francese è famoso in Francia come il bacio all'inglese. Io quella all'inglese non la conosco. Che è il bacio alla francese detto in francese. Ma che è in Inghilterra tu dici si danno un bacio all'inglese? No, in Inghilterra dice bacio alla francese. E in Francia dicono un bacio all'inglese? Esatto. Ovunque dicono la bacio alla francese, però in Francia. Yeah! È un controsenso. È come dire che la pizza margherita in Italia non si chiama margherita, in Francia invece si chiama margherita, cioè esatto. È una fesseria. Ma no, in Italia la pizza margherita non si chiamerà più margherita, sarà Francesca. No, in Italia, la pizza in Italia, Francesca. In Italia la pizza margherita si chiamerà bacio alla francese. Ovvio. Mi porti un bacio alla questo guarda sto strano che siete io non glielo do guardi se vuole. Basta queste battute maschiliste. Maschilist. Numero 46, solo a Cuba e nella Corea del Nord non viene venduta la Coca-Cola. Ci dispiace per loro. Come fanno? Perché hanno l'embargo. Come fanno a venderla se non hanno l'embargo? Hanno l'embargo. A Cuba è embargata. Non possono accettare. Possono bere Pepsi? Non so no, credo. La Pepsi è sempre americana. Solo tequila. La mattina per una colazione con la tequila. Tequila la mattina, tequila la sera. Se la fanno da sola. È corretto. No, niente. Si fanno la tequila da sola. Solo prodotti locali, niente che sia multinazionale. Hanno l'embargo? Cioè vuol dire che intorno a tutta Cuba ci stanno un sacco di navi militari, il primo che passa glielo abbattono. No, gli sequestrano la Coca-Cola. No, no, gli buttano giù la nave. C'è, no, c'è proprio il filtro Coca-Cola. Neanche la Coca-Cola Life. La Coca che avete a bordo. La Coca-Cola Life e poi ti come di vecchietti. In verità, poi vedi che uno dei contrabbandi migliori di Cuba è la Coca-Cola. Tipo le vecchie distillerie. Ovvio. È lì che c'è l'ingrediente segreto della Coca-Cola. cubani. Numero 47. Se cercate la parola SQ su Google, i risultati penderanno a destra. Ho provato anche questo. SQ? SQ. SQ. SQ. SQ. SQ? SQ. Che caspita vuol dire SQ? Cioè, praticamente vedi che tutti i risultati che fai di una pagina, di una cosa che hai cercato, cominciano a prendere che tipo di dipinto. Cioè, si piega la pagina? Sì. Ah, non è come il terremoto che tu cerchi la parola, mi pare tremor, earthquake, e ti balla la scherma in realtà così. Veramente, ma perché sono rimasto questa cosa? Cioè, basta che vai su Google e scrivi egg Google. No, perché devi ascoltare la cena dei regini. Sì. Allora sa parla. Scrivi egg Google e trovi tutto. Ma questo è un numero ancora più significativo, il numero 48. Il 20% della popolazione mondiale sogna in bianco e nero. Una cosa che ha anche una valenza. Ah, appena hai detto sogni in bianco, tutto poveretti, non dormo mai. Cioè. Sogni in bianco e nero, i sogni non sono in bianco colori. E nero. Sembra una canzone di Paolo Conte. Io sogno a colori, ho sicuro. Anch'io sogno a colori. Però non è tanto male, cioè tutto il rispetto. Saranno juventini. No, il discorso è questo, è che quando non si paga il canone, ti tagliano il colore e certo, vai in bianco e nero. Certo. Costa troppo il colore, vai in bianco e nero. Bellissimo. Okay. Vediamola così. Strappiamoci. Nel numero 49, un episodio assolutamente penso unico nella storia, del 1930 la BBC fece questo annuncio. Oggi va tutto bene, non ci sono notizie. Ma la cosa strana è che l'hanno fatto una sola volta in tutta la storia. Esatto. Quindi ogni giorno c'era qualcosa da dire. Proprio quel giorno era successo niente. Quel giorno andava tutto bene. Secondo me erano tutte le persone che si erano ammalate, tutti i reporter. Non c'era più nessuno, c'era stato un attacco proprio di colite a tutti quanti. E giustamente, non essendoci nessun giornalista, non potevano dare notizie. Ma poi non capisco, le notizie devono essere necessariamente cattive. In effetti, se tu perché vedi, io ci sono delle belle notizie. Io non hai mai sentito belle notizie? Tipo, il gattino della signora è rimasto sull'albero e ma quindi. Sono le cazzate. No. Ci sa, il gattino della signora è rimasto sull'albero ed è morto. È una buonissima notizia. Perché la signora cercava il gattino, il pompiere è salito sull'albero per salvare il gattino, gliel'ha dato alla signora, la signora l'ha ringraziato tutto il cuore e si sono sposati. Una bellissima notizia. Io ho già visto il studio aperto e il 9%, il 90% erano il lato B di qualche modella. Vabbè, ma quello non è un scusami, preferisti guardarti un telegiornale dove ti parlano del matrimonio di William e Kate, di William e Kate, del gatto della regina, del cane della regina, quindi, dei cugini di William e Kate, dei parenti. Ma chi è questo William e Kate? La maggior parte delle notizie sono queste. Modelle o brutte notizie. Comunque ragazzi, concludiamo la classifica delle 50 cose assolutamente da sapere, una notizia particolare. La somma delle facce opposte di un dado fa sempre 7. Vero. Fa sempre 20? 7. 4, 3, 5, 2, 1, 6. Il dado è esattamente classico. E deve essere così, altrimenti non è un vero dado. Perché cambiamo in due. Perché se no dici che statisticamente non capitano. Non sono divise le possibilità di fare il risultato. Esatto. Se no è truccato. 4 secondi di silenzio. Okay. Ed era la classifica delle 50 cose assolutamente da sapere nella vita, ragazzi. Se voi ne sapete altre, avete ancora altre voglia di farcele sapere, voglia di farcele sapere, discutere, scrivete a cena@delbacca.it e sicuramente ne parleremo. Naturalmente, se inviate anche 5 euro in francobolli al nostro indirizzo, sicuramente molto di più lo avrete. Ragazzi, adesso ci riascoltiamo i Amud Project, che sono stati ospiti di questa puntata, in Full Moon. E vi ricordate, non vi auguriamo il Colgate. E ragazzi, questa era la cena dei regini. Anche questa settimana raccogliamo le nostre cose e ce ne andiamo a casa. Ma voi visitate www.tbac.it, cliccate la cena dei regini per ascoltare tutte le puntate precedenti e per commentare con noi la puntata. Ci potete vedere anche su YouTube. Non so che spettacolo. Non so quanto sia edificante, però. Possiamo anche fare un sondaggio. Chi è più simpatico della puntata? Facciamo il quanto backstage della puntata. No, è meglio di no. Chi è il più simpatico della puntata? Io! No. E detto questo, visitate il sito, ci vediamo o ci sentiamo la settimana prossima. Assolutamente. Un saluto a tutti dal Buck e dai ragazzi della Cena. Un applauso. Ciao! Colgate!